Gentili ascoltatrici e ascoltatori, che la benefica mano del nostro Dio sia sulla vostra vita. Continuiamo le nostre riflessioni in merito alla presenza di Cristo nell'Antico Testamento, quale divinità di Israele e dei cristiani. Forse qualcuno penserà che si debba onorare il Padre più di quello che stiamo facendo, ma Gesù stesso ha detto le seguenti parole: il Padre non giudica nessuno, ma ha dato tutto giudizio al Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. E con il desiderio di onorare il Padre tramite Cristo, che stiamo prendendo in considerazione la persona di Cristo nell'Antico Testamento. Abbiamo considerato nell'ultima trasmissione che la divinità di Israele, cioè Yahweh, era ed è l'unica divinità del popolo di Dio. Yahweh stesso, nel rivelarsi, ha sempre espresso la sua unicità in quanto a divinità. Non solo, egli ha escluso la possibilità che vi fosse un altro Elohim, cioè un'altra divinità, all'infuori di se stesso. Ascoltiamo la lettura di due brani nel libro del profeta Isaia. Il primo si trova al capitolo 44. Così dice Yahweh, il re di Israele e suo redentore, Yahweh degli eserciti. Io sono il primo e sono l'ultimo, e all'infuori di me non c'è Dio. Il secondo è al capitolo 45. Io sono Yahweh e non c'è alcun altro, fuori di me non c'è Dio. Ti ho cinto anche se non mi conoscevi, perché dall'est all'ovest si riconosca che non c'è nessun Dio fuori di me. Io sono Yahweh e non c'è alcun altro. Infine leggiamo nel libro del profeta Osea. Eppure io sono Yahweh il tuo Dio fin dal paese d'Egitto. Tu non devi riconoscere altro Dio fuori di me e non c'è altro Salvatore fuori di me. I santi dell'Antico Testamento non ponevano dunque la propria fede in un Dio vago, in un Elohim, ma al contrario, essi avevano riposto la loro fiducia specificatamente in Yahweh. Yahweh, quindi, non era solo un nome, ma era una persona, la divinità degli ebrei. L'espressione che Yahweh è l'Elohim di Israele, cioè la divinità, si trova più di 70 volte nella scrittura. Lo ha dichiarato Mosè davanti al faraone. Ascoltiamo. Dopo questo, Mosè ed Aronne andarono dal faraone e gli dissero: così dice Yahweh, il Dio di Israele, lascia andare il mio popolo perché mi celebri una festa nel deserto. Mosè dunque spiega subito al faraone che Yahweh era la divinità del popolo di Israele. Lo dichiara lo stesso Yahweh al popolo. Ascoltiamo. Io sono Yahweh, il vostro Dio, che vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto per essere il vostro Dio. Io sono Yahweh, il vostro Dio. Israele dunque credeva in Yahweh e che Yahweh fosse Dio. I profeti stessi pregavano Yahweh, e questa è la dimostrazione che gli ebrei non credevano in una divinità vaga, come noi possiamo intendere oggi, ma avevano per divinità, come loro, Elohim, Yahweh. Ascoltiamo la preghiera del profeta Elia quando risuscita il fanciullo della vedova. Elia invocò Yahweh e disse: «O Yahweh, Dio mio, hai forse colpito di sventura anche questa vedova che mi ospita facendole morire il figlio?» Si distese quindi tre volte sul fanciullo e invocò Yahweh dicendo: «O Yahweh, Dio mio, ti prego, fa che l'anima di questo fanciullo ritorni in lui». Elia, come tutti i profeti, non si è rivolto a Dio come il suo Yahweh, ma a Yahweh come il suo Dio. Anche Davide, prima di morire, ha invocato Yahweh come il suo Dio. Ascoltiamo. Ma io, o Yahweh, confido in te. Ho detto, tu sei il mio Dio. Il popolo di Israele aveva una divinità. Questo Dio era Yahweh. Il tetragramma non è un titolo dato al Dio di Israele, non è solo un nome, ma è una persona della Deità. C'è chi vede nel tetragramma un nome per riferirsi alle tre persone della Trinità. Se così fosse, però, tale nome lo potremmo ravvisare nel nome generico Elohim, cioè Di, che ci fa pensare ad una pluralità. Ma Yahweh è il nome attribuibile ad una sola persona della Trinità. Alcuni studiosi fanno notare addirittura che il nome Gesù dato dall'angelo a Maria per il figlio che avrebbe partorito tramite l'opera dello Spirito Santo, in ebraico significa Yahweh. A prima vista, questa sembra una conclusione semplicistica, ma è proprio la mancanza di questo presupposto che porta gli studiosi biblici ad essere in disaccordo sulla natura di Dio. Poiché Dio non può essere compreso rettamente se non nella sua rivelazione, è evidente che dobbiamo dare la massima importanza a come egli si è rivelato. Se la divinità di Israele dei cristiani, il Creatore, si è rivelato nella persona di Yahweh, per non perderci in concetti filosofici ed astratti intorno alle tre persone divine, dobbiamo centrare la nostra massima attenzione sulla persona di Yahweh. Perché la natura di Dio può essere compresa solo attraverso l'interpretazione di Yahweh stesso e delle sue azioni. Qualsiasi teologia che non tenga presente questo presupposto è destinata ad incorrere in contraddizioni molto serie in relazione alle tre persone divine. I cristiani del XXI secolo hanno una sfida non facile, ma non possono esimersi nell'esaminare attentamente l'oggetto della loro fede. Chi confessa la sua fede in Cristo deve uscire da una generica fede in Dio per passare ad un cristocentrismo come metodo interpretativo di tutta la Scrittura. Per riconfermare che Cristo è Yahweh, consideriamo gli incontri che facevano i profeti dell'Antico Testamento con la loro divinità. Come abbiamo detto, è importante comprendere che il popolo di Dio non credeva in una divinità vaga, in un essere impersonale, in una intelligenza superiore o in un Dio senza volto, ma che aveva per divinità Yahweh. Quando i santi dell'Antico Testamento parlavano e pregavano il loro Dio, è scritto che essi comunicassero con Yahweh. Da una lettura attenta noteremo questo. Prendiamo ad esempio Adamo ed Eva quando erano nel giardino dell'Eden. Ascoltiamo. Poi udirono la voce di Yahweh Elohim che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Yahweh Elohim fra gli alberi del giardino. Allora Yahweh Elohim chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Dunque è Yahweh dell'Elohim che passeggia nel giardino, che chiama Adamo. Ed è lui, Yahweh, colui dal quale Adamo ed Eva si nascondono. Alcuni continuano ostinatamente a interpretare questo racconto in modo simbolico. Ma l'interpretazione letterale cosa ha di sbagliato? Non può Yahweh camminare, parlare, essere una presenza tale dalla quale Adamo ed Eva scappano? Certo che può. E di questo ne parleremo nelle prossime trasmissioni. Prendiamo ora ad esempio la testimonianza della Scrittura in merito alla fede di Abramo. Ed egli credette a Yahweh, che glielo mise in conto di giustizia. Poi Yahweh gli disse: «Io sono Yahweh che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei». Abramo credette alla divinità di Israele, non in un Dio vago, ma in Yahweh, ed egli parlò con lui. Ciò che lascia esterrefatti è che nei Vangeli Gesù afferma che Abramo ha creduto e parlato con lui. Non è mai scritto nella parola di Dio che gli uomini parlarono con la persona del Padre di Gesù Cristo. Il fatto che Abramo abbia posto fede in Cristo rende ridicola l'opinione secondo la quale Abramo era musulmano. Infine, la testimonianza del salmista mette fine ad ogni dubbio. I santi dell'Antico Testamento non hanno posto fede in una divinità vaga. Ascoltiamo la lettura nel Salmo 99. Mosè ed Aronne furono fra i suoi sacerdoti e Samuele fra quelli che invocarono il suo nome. Essi invocarono Yahweh ed egli rispose loro. I credenti dell'Antico Testamento invocarono quindi come divinità la persona di Yahweh. Infine, cari ascoltatori, ricordiamo l'episodio della chiamata del profeta Isaia. La visione che ebbe il profeta ci rivela ulteriore verità. Ascoltiamo. Nell'anno della morte del re Uzia, io vidi il Signore assiso sopra un trono alto ed elevato, e i lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini. Ognuno di essi aveva sei ali. Con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. L'uno gridava all'altro e diceva: «Santo, santo, santo è Yahweh degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Gli stipiti della porta furono scossi dalla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempì di fumo. Allora io dissi: ahimè, io sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, Yahweh degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Con esso mi toccò la bocca e disse: ecco, questo ha toccato le tue labbra, la tua iniquità è rimossa e il tuo peccato è espiato. Poi udì la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Io risposi: eccomi, manda me. Nell'anno della morte del re Uzia, Isaia vide il Signore, nel senso di Adonai, il padrone, seduto su un trono molto alto. Sopra di lui vi erano degli angeli, cioè dei serafini, che gridavano tre volte la santità di Yahweh. Il profeta Isaia era angosciato per aver visto il re, cioè il tetagramma, ma egli udì la voce di Yahweh che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Yahweh si chiede chi avrebbe mandato per parlare al popolo, ma si domanda pure chi sarebbe andato per loro. Yahweh dunque si esprime al plurale. Chi sono dunque questi loro? Si tratta di un plurale maestatis, oppure effettivamente Yahweh si riferisce ad una pluralità di persone presenti in seno alla divinità? In questo pronome plurale non vi è forse nascosta la verità che i cristiani da sempre sostengono, e cioè che in seno alla divinità degli ebrei e dei cristiani sussistono tre persone uguali e distinte? Oppure, come sostengono alcuni, in questo pronome plurale la divinità degli ebrei sta parlando degli angeli? Possibile che Yahweh divida la sua gloria con delle creature inferiori a lui? O, poiché la divinità del popolo di Israele non divide la gloria con nessun altro, non è più probabile che Yahweh si riferisca a persone come lui, uguali, sebbene distinte? Risponderemo, cari ascoltatori, a questi interrogativi nel prossimo studio, quando prenderemo in esame la polideità dell'Elohim. Intanto vi saluto con affetto e che lo spirito di rivelazione di Gesù Cristo abiti sempre in voi.